Perfetta Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Perché la tennis femminile? Cioè, mi viene quasi il sospetto che andare a vedere la nazionale i politici lo devono fare. Andare invece a vedere due tenniste che fanno una cosa enorme, qualcuno ha storto la bocca. Però, per chi era lì a New York a vedere l'entusiasmo delle bandiere tricolori e anche della nonostante la rabbia per la Williams, che era la paladina di casa, è stato talmente bello che è anche un segnale importante dell'orgoglio del paese. Ma sì, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo naturalmente soprassedere sul fatto del volo di Stato, eccetera, eccetera. Tutto sommato, Renzi ha detto, se fosse stata la nazionale maschile, naturalmente, di calcio, allora tutti avrebbero giustificato, anzi sarebbe stato scontato, visto che erano due tenniste, e diamogli questa motivazione femminista, finalmente, per una volta. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, molti gli argomenti di questa sera, ricominciando la settimana, dopo che vi avrò naturalmente raccontato, come sempre, una sintesi della giornata, ci occuperemo naturalmente ancora di immigrazione, perché i flussi continuano. Oggi poi è stata la giornata del vertice europeo, che era tanto atteso, pieno di aspettative. Avranno veramente concluso qualcosa i vari esponenti delle varie nazioni in sede dell'Unione Europea? E poi lo sapremo tra poco. Su questo argomento vorrei provare a sentire, dovremo raggiungerlo tra poco, anche il professor Giovanni Sartori, politologo di fama internazionale, diciamo decano proprio dei politologi italiani. Mi piacerebbe sapere, di solito ha opinioni piuttosto controcorrente su vari temi, anche su questo. Per esempio, lui tante volte ha scritto dell'eccessivo sovrappopolamento del pianeta. Poi ci occuperemo anche del primo giorno di scuola. Voi come la siete passata? Quali sono genitori, oppure gli stessi studenti, studentesse che state ascoltando? E poi sapete di quello che è successo nel Piacentino, in particolare del maltempo. Ancora non è iniziato l'autunno e già ci sono disastri anche per la fragilità del nostro territorio. Si dice sempre che si devono stanziare soldi, forse sono anche stati stanziati per dissesto idrogeologico, e poi puntualmente succedono purtroppo queste cose. C'è stato un morto, ci sono anche due dispersi, e ci collegheremo col sindaco di Bettola, paese in provincia di Piacenza, che è anche poi il paese natale di Bersani, per capire insomma che fine hanno fatto questi due dispersi, padre e figlio. Speriamo in una buona soluzione, in un lieto fine, ma insomma poi cercheremo di capire. E poi insomma molti altri argomenti: c'è il calcio, c'è la Serie A in campo, una partita un posticipo, poi c'è la Juventus che ha avuto un'altra tegola in testa. Però voi naturalmente con molta attenzione seguite Effetto Notte, adesso fino alle 22, vi lancio l'argomento di questa sera, e potete scrivere come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio a milioni, oppure potete scrivere messaggi al 349 238 6666. Lo ripeto, 349 238 6666. Qual è il tema? Rifacendosi al primo giorno di scuola, che è stato oggi, c'è questo commento di Salvini, leader della Lega, che ha detto: secondo me va messo un tetto alla presenza di bambini, di studenti stranieri in una classe. L'ha commentato sapendo di questa scuola elementare di Brescia, composta di soli studenti, due classi composte di soli studenti stranieri. Voi cosa ne pensate? Sareste d'accordo a mettere un tetto, a dire non oltre in ogni classe tot bambini provenienti da altri paesi, di altre nazionalità? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. E ora i titoli: emergenza migranti, via libera dell'Unione Europea, 24.000 ricollocamenti dall'Italia e all'uso della forza contro gli scafisti. E l'Ungheria chiude l'ultimo varco del muro alla frontiera con la Serbia. Maltempo, esondazioni al nord, nel Piacentino un morto e due dispersi. Economia: Renzi annuncia che la manovra sarà da 27 miliardi e assicura dopo due mandati vado a casa. Primo giorno di scuola, riparte l'anno tra le polemiche dopo la riforma, e la ministra Giannini commenta: i prof hanno accettato la sfida, ma Salvini dice che bisogna mettere un tetto agli stranieri nelle classi. Egitto, in un blitz anti-ISIS, uccisi per errore con bombe e missili turisti messicani e guide egiziane, 12 morti. Gran Bretagna, il nuovo leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, nomina i ministri ombra, polemiche sulle donne escluse dai ruoli chiave, in Australia esautorato il premier Abbott. Per il calcio, per il posticipo di Serie A in campo Sampdoria-Bologna, alla vigilia dell'esordio in Champions, tegola sulla Juventus perché Marchisio è fuori per un mese. Partiamo qui quindi dall'emergenza migranti, mentre in Grecia nel fine settimana sono state salvate 1500 persone dal mare e proseguono intanto le ricerche dopo il naufragio di ieri in cui ne sono morte 34, tra cui 15 bambini. Oggi è stata la giornata dell'attesissimo vertice europeo, vi dicevo, straordinario per trovare un'intesa finalizzata, insomma, a delle misure comuni, a affrontare in modo corale il fenomeno migratorio e i problemi connessi. Tra le misure di ricollocamento negli altri paesi di 24.000 migranti dall'Italia e il via libera all'uso della forza per combattere gli scafisti. Poi però ci faremo raccontare più nel dettaglio quali sono i punti chiave di questo accordo, se questo accordo arriverà. Intanto si intensificano i controlli alle frontiere praticamente quasi in tutta Europa dopo la decisione della Germania. Sono stati più di 5.300 i migranti arrivati in Ungheria soltanto questa mattina dalla frontiera con la Serbia, un flusso che va avanti ormai da settimane ma che il governo di Budapest conta di interrompere a partire dalla mezzanotte, quando scatteranno le norme più severe che prevedono fino a 3 anni di carcere per chi entrerà nel paese in modo illegale. Militari e mezzi blindati sono arrivati nelle ultime ore per presidiare le barriere erette lungo il confine meridionale, il principale punto di accesso utilizzato dai migranti, quello di Roche, che è stato già chiuso dalla polizia ungherese. Dopo la Germania, intanto anche Austria, Slovacchia e Olanda hanno deciso di sospendere gli accordi di Schengen e reintrodurre i controlli alle frontiere. In mattinata è stata invece ripristinata la circolazione dei treni fra Austria e Germania, mentre nel weekend quasi 1.500 migranti sono stati soccorsi in mare in Grecia, dove proseguono anche le ricerche dopo il naufragio nel quale ieri sono morte 34 persone, fra le quali 15 bambini. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il maltempo con le pesantissime conseguenze su Liguria e soprattutto sull'Emilia Romagna per le forti piogge e il conseguente straripamento dei fiumi di Trebbia e Scrivia. La situazione più grave nel Piacentino: ci sono state case sventrate, allagate, auto inghiottite. In un primo tempo c'erano 3 dispersi, la notizia di oggi. Poi è stato trovato nel pomeriggio il corpo privo di vita di una guardia giurata, scomparsi, nel senso che sono andati per dispersi, per il momento padre e figlio inghiottiti dalle acque. Liguria ed Emilia Romagna starebbero per chiedere lo stato di emergenza. Intanto c'è l'allerta maltempo anche in Veneto, perché le perturbazioni si stanno spostando verso il nord-est. Più tardi ci collegheremo col sindaco di Bettola per sapere, come vi dicevo, se ci sono degli aggiornamenti su 2 dispersi. Per quanto riguarda invece la pagina economica, il presidente del Consiglio a 8,5 ha annunciato, ed è adesso ancora in onda, che la manovra sarà di 27 miliardi. Vediamo se sente qualcosa. Ha parlato sociologicamente fin troppo, ma è molto molto interessante discutere cosa sia l'Europa. Con la Merkel a cena all'Expo ad agosto abbiamo discusso del rischio. Lei ha utilizzato un'immagine molto suggestiva. La Merkel mi ha detto: io ho paura della sindrome dei Maya, e io gli ho utilizzato quella del declino dell'impero romano, cioè 2 grandi civiltà, 2 grandi civilizzazioni che a un certo punto smettono di essere attrattive e vanno in crisi. E dove li trova lei i soldi per abbassare le tasse? Ma sarebbe molto interessante discutere degli ideali, non lo facciamo no, qui. Tasse, anche, soldi, anche perché, pochi, esatto, maledetti perché, subito. Siccome lei ha fatto un incontro poco fa di oltre 3 ore col ministro dell'economia Padoan, avete parlato di crescita del prodotto interno. Va bene, lordo. Allora, messo a verbale Padoan, che per me l'Europa dovrebbe non essere solo spread e burocrazia, vado nell'ordine. Manovra finanziaria da circa 27 miliardi di euro. Vado così, va bene, così vado sul merito. Non abbiamo da sforare nessun conto, anzi dal prossimo anno scende il debito. Questo bisogna essere chiari con gli italiani, questo deve essere molto chiaro. Io sono contro le politiche di austerity, tutta la visione sul rigore, però l'Italia ha un problema in più rispetto agli altri, e cioè che una classe politica intera, quella prima di noi, ha caricato i costi della gestione quotidiana sulle generazioni successive. Comunque avete sentito, cioè, una manovra da 27 miliardi, abbiamo beccato proprio nel momento, una coincidenza straordinaria. E parliamo anche del primo giorno di scuola oggi, è stata la mattinata in cui il Presidente del Consiglio, sempre parliamo di Renzi, aveva iniziato con un tweet sul primo giorno di scuola in molte regioni e ha detto: ora sulla scuola si investe e non si taglia, così aveva scritto. Inaugurazione dell'anno scolastico ad Isernia per il ministro dell'istruzione. Non abbiate paura, dice ai ragazzi Stefania Giannini, neppure di chiedere aiuto e di confrontarvi, siate sempre curiosi. E va agli insegnanti che hanno accettato l'incarico e sono stati assunti a tempo indeterminato il pensiero del ministro Giannini, che risponde all'appello del Papa ieri a Piazza San Pietro in sostegno dei docenti sardi che dovranno trasferirsi lontano. Stabilizzare 100.000 persone e offrire un posto stabile, una dignità di vita e di sicurezza è andare incontro alle esigenze delle loro famiglie, nonché loro individuali. Ai precari non più tali va anche il pensiero del premier Renzi. Il tempo è galantuomo e i prossimi mesi dimostreranno che la buona scuola non era il mostro paventato, scrive Renzi su Facebook. Il 97% dei docenti ha accettato il ruolo proposto. Gli insegnanti hanno detto sì alla proposta di assunzione perché non avevano scelta, ribatte Mimmo Pantaleo della CGL Scuola al microfono di Alessandro Milan. Paradossalmente, se uno non fa la domanda, rimane iscritto nelle graduatorie di esaurimento. Se uno fa la domanda e non accetta, perde l'iscrizione alla graduatoria e non ha più un posto. Il 9 ottobre, prima manifestazione contro la buona scuola. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto vi dicevo, Salvini che ha commentato: bisogna mettere un tetto alla presenza di bambini stranieri nelle classi. Voi che cosa ne pensate? Scrivetelo sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure commentate al 349-238-6666. Già stanno arrivando i messaggi. Ci spostiamo intanto sulla pagina estera. In Egitto, nell'area di El Wat, sono stati uccisi per errore 12 turisti, di cui 7 messicani, con bombe e missili dall'aviazione militare egiziana. Pensavano che fossero dei terroristi ISIS, dicono lì in quella zona i turisti non sono autorizzati, mentre la compagnia che li guidava ha detto non è vero, ci vanno spesso i turisti. Intanto il Messico però vuole che si apra un'inchiesta rapida ed efficiente su questo tragico raid delle forze di sicurezza egiziane. Intanto in Gran Bretagna nasce il governo ombra del neoleader laburista Corbyn. In realtà più della metà del governo ombra, 16 su 31, è composta da donne, ma questo non è bastato al neo leader laburista Jeremy Corbyn ad evitare le accuse di aver escluso le compagne di partito dai ruoli chiave. Portafogli ombra quali la difesa, l'educazione, le attività produttive e la sanità sono ritenute comunque insufficienti da parte dei critici, scelte da rivedere anche secondo a buona parte della stampa britannica. La nuova squadra ribatte però lo stesso Corbyn: una forte combinazione di cambiamento e continuità. Ruolo chiave sarà svolto da John McDonnell, veterano della sinistra interna del Labour britannico, esattamente come il neo eletto leader del partito. A lui, in veste di cancelliere dello scacchiere ombra, Corbyn ha affidato la guida dell'economia nella rinnovata squadra che si propone di sfidare il governo in carica del Regno Unito, quello conservatore di David Cameron. Primo terreno di scontro la Union Bill, proposta di legge voluta fortemente dai Tory, che introduce una serie di restrizioni al diritto di sciopero e definita da Corbyn un attacco ai lavoratori. Il nuovo leader laburista sta intanto chiamato a ridimensionare le voci sull'eventuale appoggio al no all'Unione Europea nel referendum promosso da Cameron. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora in Italia con la cronaca, con i femminicidi. Un quarantenne ha ucciso a coltellate la moglie di 47 anni nella loro abitazione di Asti, in Piemonte, davanti al suocero che ha cercato invano di fermarlo ed è rimasto ferito. L'omicida, un cittadino marocchino disoccupato, è stato arrestato. La donna italiana lavorava come domestica e badante. Poi a Terzigno, vicino Napoli, in strada è stata uccisa a colpi di pistola una donna di 36 anni. Gli spari ci sono stati davanti a un negozio. Un'auto in corsa si è accostata e qualcuno dal finestrino ha aperto il fuoco verso la donna. È sospettato l'ex marito. Parliamo anche di un trapianto eccezionale che è stato completato con successo, un trapianto di fegato a cuore fermo. A eseguire l'operazione dell'ospedale Niguarda di Milano lo scorso 3 settembre è senza precedenti questa impresa di preservare il fegato per quei 20 minuti che per legge devono trascorrere dopo l'arresto cardiaco prima di poter effettuare un trapianto. Ne abbiamo parlato col direttore del Centro Nazionale Trapianti, Alessandro Nanni Costa. Non c'è descrizione in letteratura di un trapianto di fegato dopo 20 minuti di ischemia. Si è sempre ritenuto che questo limite di 20 minuti fosse invalicabile rispetto alla questione della sofferenza epatica, cioè che in 20 minuti le strutture del fegato fossero irreversibilmente danneggiate. È un successo da una parte di alcune professionalità, dall'altra parte di alcune tecnologie e dall'altra parte di una rete, perché questa è stata la punta, ma si lavora su questo tema in parecchi centri italiani da più di un anno. Pensare che le donazioni di trapianti di fegato possono nel giro di alcuni anni avere un aumento di tra un valore attorno al 5%, è realistico. È una tecnica per aumentare il pool dei donatori importantissima e quindi ridurre le liste di attesa. E adesso siamo sulla pagina sportiva con il calcio, c'è Dario Ricci per il posticipo di Serie A, vero Dario? Sì, sì Roberta, siamo quasi al 35esimo di gioco a Marassi dove finalmente si gioca Sampdoria-Bologna, rinviata ieri per il maltempo, risultato ancora di 0-0, da segnalare solamente la traversa colpita su calcio di punizione da Brienza per il Bologna, bella partita, poche emozioni a parte questa traversa, risultato ancora sullo 0-0. Vediamo se poi arriveranno altre emozioni, grazie Dario Ricci, intanto vediamo anche i vostri messaggi emozionanti al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Enzo 64 dice: Salvini dovrebbe parlare quando le oche fanno pipì, non ho ben capito il tempismo diciamo, ma comunque. Massimo da Udine: ha ragione Salvini, è anche logico che solo una certa percentuale sia di stranieri nelle classi, mia figlia ha in classe balcanici ed africani per i quali gli insegnanti fanno non poca fatica per via della lingua specie scritta. E poi un altro messaggio: il problema non è l'etnia degli alunni ma la loro preparazione base che quando è carente rallenta tutta la classe. Ecco, cosa ne pensate di questo, a proposito del primo giorno di scuola e questo commento del leader della Lega Salvini che oggi ha la notizia che in una scuola di Brescia ci sono due classi solo di bambini stranieri, ha detto bisogna porre un tetto. Voi come la pensate? Scrivetelo sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure mandando sms al 349-238-6666. Tra poco ci addentriamo man mano negli argomenti. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, guardavo anche i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito del commento di Salvini, della proposta diciamo di mettere un tetto al numero di bambini stranieri nelle classi scolastiche. Camilla scrive: ha perso l'ennesima occasione per tacere, forse se le sue affermazioni non fossero rimbalzate dai media inizierebbe a farlo. Comunque è un leader politico. Franco: tanto la croce, l'importante è che sia sempre nella scuola e quindi va bene. Ilaria: buonasera Roberta, sono assolutamente a favore di una scuola multietnica e multiculturale, mi domando però se gli insegnanti vengano forniti gli strumenti per gestire queste nuove realtà al meglio. Effettivamente bisogna considerare anche questo problema. Bene, voi continuate con i vostri messaggi, tra poco cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti, io intanto vi ricordo le notizie più importanti. Renzi in televisione annuncia una manovra da 27 miliardi e poi dice che il PIL è stato, si vedrà a breve, rivisto al rialzo più 0,9% e annuncia la digital tax per il 2017. Per quanto riguarda il vertice europeo sull'immigrazione, sembra che ci sia un accordo a metà sui migranti, intanto via alla missione antiscafisti, tra poco ne parleremo. Un nubifragio nel Piacentino provoca un morto e due dispersi, padre e figlio, ne parleremo anche questo nel corso di Effetto Notte. Primo giorno di scuola. Ministro Giannini dice: i professori hanno accettato la sfida e Salvini dice bisogna mettere un tetto agli stranieri nelle classi. Egitto, in un blitz anti-ISIS uccisi per errore turisti messicani, 12 morti tra cui anche 4 guide egiziane. E poi è già braccio di ferro tra il primo ministro Cameron e il nuovo leader laborista Corbyn sul diritto allo sciopero. Diventa un caso Berlusconi con Putin in Crimea perché Kiev, capitale ucraina, se l'è presa molto diciamo per questa visita di Berlusconi con Putin nella annessa Crimea. E poi primo trapianto di fegato in Italia da donatore a cuore fermo. Dunque, riprendiamo dall'esodo dei migranti, esodo che continua senza sosta, vi dicevo di queste 1500 persone che sono state salvate nel fine settimana sulle coste greche, 34 sono morti in un naufragio, tra cui 15 bambini. Intanto, dopo la Germania, l'Austria e la Slovacchia, anche l'Olanda annuncia il ripristino del controllo alle sue frontiere. La Francia si dice pronta a rifare come nelle settimane scorse, di rafforzare i controlli nella frontiera con l'Italia. Nel frattempo, l'Ungheria ha chiuso l'ultimo passaggio ancora aperto del muro di filo spinato di 175 chilometri retto lungo la frontiera con la Serbia, ma oggi è stata soprattutto la giornata in cui i paesi europei in sede di Unione Europea insomma dovevano riunirsi per trovare un accordo comune per fronteggiare questo problema in modo collettivo, corale. Europa 24 notte. E c'è Sergio Nava per dirci se le cose effettivamente sono andate così dalla tua espressione. Non mi sembra, Sergio. Ciao Roberta, beh, al momento la riunione straordinaria, l'attesa riunione straordinaria è ancora in corso ed è già andata oltre le aspettative. Si attendeva per le 7, le 8 la conferenza stampa, siamo alle 9:20, quindi evidentemente faticano a trovare l'intesa. Sì, perché per quello che si è capito, almeno c'è stata una conferenza stampa congiunta dei ministri dell'interno tedesco e francese, De Maizière e Cazeneuve, e quello che si è capito è che di fatto non si è raggiunto alcun tipo d'accordo. Anzi, la Germania, abbastanza esplicita, De Maizière ha detto: non c'è accordo né sulle quote né sulle modalità di ripartizione. Parliamo dei 120.000 rifugiati da redistribuire nei prossimi anni, proposti da Jean-Claude Juncker la scorsa settimana a Strasburgo. Che sono 120.000 parte dall'Italia, no? Dovrebbero sì, essere. Una parte dall'Italia, Grecia, Ungheria sono conti, i paesi più. Sì, dovrebbero essercene almeno un 16.000 circa dall'Italia, più quelli greci, poi ci sarebbero anche quelli dall'Ungheria, ma l'Ungheria ha detto non vuole prendere parte a questo meccanismo. Il vero punto di scontro riguarda proprio i 120.000, perché poi sugli altri. E qui è anche abbastanza bizzarra, devo dire una cosa, su 40.000, che sono i 40.000 su cui si era tratto l'accordo annacquato a luglio, è stato ridato nuovamente il via libera. Però nel frattempo non si è più capito molto, perché a luglio era stato tratto un accordo su 32.000. La cifra originaria era 40.000, sì, ora si dice ancora 40.000. Però Sergio, scusi ti interrompo, sì. Ma a proposito di interromperti, c'è una nuova interruzione dei lavori del Consiglio straordinario dei ministri dell'interno europeo sull'immigrazione in questo momento. Leggo: secondo quanto riferiscono fonti europee, la Slovacchia, che è uno di quei paesi dell'est piuttosto rigidi sulla questione, chiede che nel documento finale ci sia un riferimento esplicito alla volontarietà del meccanismo di ridistribuzione dei rifugiati, cioè non vogliono delle quote obbligatorie. Che è quello che invece la Commissione europea giustamente ha detto: sì, andiamo avanti con la volontarietà, non andremo da nessuna parte. Qui d'altronde bisogna anche capire una cosa, questa Europa sull'immigrazione sta avendo, forse anche per la sua estrema eterogeneità, ormai parliamo di 28 paesi dall'Atlantico agli Urali, però un andamento abbastanza imbarazzante, perché c'è la crisi, l'affondamento del barcone con centinaia di persone a bordo, o c'è anche l'immagine del piccolo Alan. C'è una grande commozione, ministri che si precipitano a dire facciamo qualcosa, e poi però passano giorni e settimane e quello che accade è questo, cioè l'annacquamento di quello che si vorrebbe fare. A luglio anche Germania e Francia annacquarono, ora invece sono molto più determinate a fare qualcosa realmente, ma ora c'è il blocco dei paesi dell'est che punta i piedi. Quindi è un'Europa che nel momento cruciale sull'immigrazione si divide. Grazie Sergio Nava, poi capiremo, insomma, a mano vi darò anche degli aggiornamenti se dovessero arrivare, quando si dovesse chiudere, ci dovesse essere una conferenza stampa, magari ci ricolleghiamo con Sergio. Grazie intanto Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E su questo esodo epocale, sul modo da parte europea di affrontarlo, sull'impatto diciamo che ha sulle popolazioni europee, ma anche sulle classi dirigenti e quelle di governo, vorrei sentire l'autorevole opinione di un diciamo il decano dei politologi italiani, un politologo di fama internazionale, che è il professor Giovanni Sartori, che saluto. Professore, Buonasera professore, lei che ne pensa di tutta questa agitazione, di queste persone che scappano, della drammaticità delle loro storie, dei luoghi da dove provengono e la difficoltà anche dell'Europa di trovare delle soluzioni comuni? Penso che, insomma, per essere breve, perché devo essere breve, che hanno sbagliato tutto sin dall'inizio e hanno creato una confederazione aperta e indifesa, e queste sono le conseguenze. Se non creano difese, poi le difese sorgono quando i numeri diventano troppo alti, e non si capisce perché dobbiamo diventare 2 miliardi, ma il problema è questo, che stiamo diventando 2 miliardi e 2 miliardi non c'è posto sulla Terra. Perché lei spesso ha scritto, professore, sul sovrappopolamento della Terra, spesso l'ha scritto in modo critico, no? Questo. Ma quindi in ogni caso le cose, i dati di fatto sono questi, la realtà è questa. Ora l'Europa che cosa dovrebbe fare, secondo lei? Quali difese avrebbe dovuto poi creare, chi non ha creato? Ma non c'è una sola cosa, parliamo dell'Italia, perché se no se si parla di tutto diventa troppo complesso, ci ritroviamo ancora insieme a mezzanotte domani sera. Magari senza, no, tanto il caso che ci interessa è il nostro. Il nostro è il caso più valoroso della storia, perché abbiamo creato un'entità che giustamente viene chiamata Unione, che è tutta fuori posto, non c'è nulla che sia fatto bene e che abbia senso, perché non si può creare un'alleanza, un'entità, lasciamo stare la denominazione, ma non si può creare un'entità politica aperta e indifesa, indifendibile. Noi abbiamo creato un organismo indifendibile, tutti possono entrare e figurarsi, e siamo 2 miliardi, che è già quasi 2 miliardi, che è una cifra che non possiamo sopportare. Quindi, sta parlando dell'Europa, lei, professore. Destina non solo al cambiamento climatico che è già avvenuto e che sta avvenendo, ma che destina a centinaia di milioni di persone alla morte perché non c'è acqua. Professore, il titolo del suo ultimo libro è La corsa verso il nulla. La corsa verso il nulla è dell'Italia o del mondo intero? Che cos'è questo nulla? No, siamo noi. Noi italiani? Il mondo intero. È un discorso che richiede un libro un po' più ampio. Quindi la corsa verso il nulla è la nostra, che è la più stupida, la nostra dei primi 7 fondatori, insomma. Quindi io mi occupo dell'Italia e dei paesi occidentali. Parla anche di declino, lei, professore, di un declino ineluttabile dell'Italia e dell'Europa. Ma sì, perché ora siamo non sapendo più come impiegare la sovrappopolazione in cerca di impiego, si espande nelle Nazioni Unite, che sono arrivate addirittura, fa ridere, ma che sono arrivate addirittura all'Unione Sovietica. Non ha senso comune, è sempre esistito un'Ucraina russa. La lasciano stare, la lasciano ai russi, dico. Quando il caso di Cuba è esemplare, quando si parlò di installare dei missili a Cuba sugli Stati Uniti, gli Stati Uniti dissero altro, non ve lo consentiamo, e giustamente fecero marcia indietro i sovietici e Khrushchev. E lo stesso è vero per il caso dei polacchi russi, anzi fanno comodo questi piccoli stati cuscinetto, perché eliminano le frizioni dirette che stanno avvenendo invece in questo momento. Professore, tornando invece sulle questioni proprio italiche, faccio proprio una brevissima domanda sulle riforme messe in cantiere da Renzi. Adesso si parla del Senato, la legge elettorale, poi ci saranno le unioni civili, bisogna vedere quando. Che ne pensa? Ma che non c'è nulla che abbia senso, perché noi abbiamo avuto un referendum aperto, quindi pericolosissimo, non controllato, e che diceva che cosa? Indicava il segretario del partito o il candidato segretario del partito. Tutto un tratto questo candidato è diventato capo del governo, non c'entra niente, e così tutto il resto. Abbiamo fatto delle elezioni europee e da queste elezioni europee abbiamo ricavato che cosa? Chi va in Europa? Sì, anche questa, ma insomma abbiamo ricavato tante cose che non c'entrano niente. Quindi abbiamo creato un sistema, una meccanica se si vuole, di organismi che sono tutti fuori posto e che non ha senso. Dico, un referendum poteva creare un segretario del partito, non un presidente del consiglio. A lei non piace Renzi, professore? Le piace Renzi? Ma io ho scritto che Renzi non mi sembra ancora maturo, dico, è un buon secondo, è molto abile, è molto furbo. Faccio notare che nel suo programma elettorale dell'ambiente e di tutti questi problemi che ora ci sembrano gravissimi nemmeno venivano menzionati, quindi l'orizzonte mi sembra un po' limitato di questo giovanotto. Professor Sartori, allora ricordo La corsa verso il nulla, è un titolo un po' inquietante, speriamo di no, ma insomma dall'alto della sua autorevolezza è qualcosa. Ma guardi che ce no, voglio fare, voglio allungare. Ah, lo vuole allungare? Un primo assaggio. Ah, ecco. ne ho molte di riserve ancora. Il nulla del resto è molto vasto. Grazie professor Sartori intanto, grazie ancora. Ha dato troppo poco tempo, sono molto frustrato. No, e allora per grazie cercare... a lei, no. Grazie a lei. Va bene, un'altra volta allenirò la sua frustrazione, professore. Voleva aggiungere una cosa? Voleva aggiungere no, una no, sua... no, no, per carità, non si... Insomma, non c'è solo organismo a posto, è una cosa assurda. E il mondo sotto sopra. Grazie, professor Sartori, intanto. Grazie, buona grazie serata. A voi. Grazie. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. In una scuola di Bologna, in prima elementare, sono 20 stranieri e 3 italiani. Impareremo tutti a parlare, non so quale, la maggioranza il cinese, dice un ascoltatore, ascoltatrice, al 349-238-6666. Sei Roberto Giordano, sempre con voi. Intanto continuano i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666. Su quello, la proposta, diciamo, che ha fatto il leader della Lega Salvini su un tetto ai bambini stranieri nelle scuole. Lidia dice, tetto nelle classi, vecchio problema, nasce dal fatto che i migrati da sempre abitano in quartieri ghetto, i figli non possono essere mandati in scuole lontane dalle abitazioni. Un altro messaggio, vorrei che i presidi fossero tutti stati ottimi insegnanti e che presiedessero d'obbligo tutte le riunioni convocate in primis in consigli di classe. Amerigo scrive, si dovrebbe fare come attualmente si fa in Germania, i bambini stranieri, anche quelli italiani, vanno in classi specializzate dove oltre al programma regolare imparano la lingua tedesca. Poi sulla pagina Facebook Giuseppe, mi sembra giusto, prima di inserire i bambini stranieri la scuola dovrebbe verificare il grado di conoscenza della lingua italiana. E fra gli altri c'è Dublez che dice, alunni stranieri nelle scuole, insegno diversi disabili tra cui alcuni disabili stranieri in apparenza doppia disabilità, disabili e stranieri, non la penso così però, in verità il buon insegnante sa lavorare sulle abilità degli studenti che sono peculiari e diverse per ogni individuo. Tra poco ne parleremo di scuola, del primo giorno di scuola. Intanto vi ricordo velocemente i titoli più importanti. Emergenza migranti, via libera dell'Unione Europea, 24.000 ricollocamenti dell'Italia all'uso della forza contro gli scafisti e l'Ungheria chiude l'ultimo varco del muro alla frontiera con la Serbia. Maltempo, esondazione al nord, nel Piacentino un morto e 2 dispersi. Economia, Renzi annuncia che la manovra sarà da 27 miliardi. Primo giorno di scuola, ne parleremo tra pochi istanti. Egitto, in un blitz anti-ISIS, uccisi per errore con bombe e missili turisti messicani e guide egiziane, 12 morti. Calcio per il posticipo di Serie A in campo Sampdoria-Bologna. Quindi dicevamo, oggi primo giorno di scuola, sono tornati sui banchi ben 9 milioni di studenti e vi sono tornati naturalmente anche insieme agli insegnanti con le novità della riforma. Ne parliamo con la senatrice Francesca Puglisi, senatrice del PD e responsabile scuola del Partito Democratico. Buonasera senatrice. Buonasera a voi. E con Raffaela Milano, direttrice programmi Italia-Europa di Save the Children, organizzazione internazionale non a scopo di lucro, sapete, da anni si batte per i diritti dei bambini nel mondo. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Prima di tutto vorrei che Raffaela Milano ci facesse un quadro di questo rapporto che è stato presentato da Save the Children sul livello di preparazione dei bambini, degli studenti in Italia, in cui insomma, si notano parecchie lacune, soprattutto legate alla povertà, al livello di povertà, dottoressa Milano? Sì, noi parliamo proprio in questo rapporto di povertà educativa. In sostanza, una delle conseguenze della povertà materiale vissuta da tante famiglie, ricordiamoci che in Italia abbiamo 1 milione di bambini e adolescenti che sotto la soglia della povertà assoluta. Questi sono dati ufficiali e sono dati assolutamente allarmanti. Insomma, questa povertà materiale ha poi un riscontro nella crescita educativa dei ragazzi e di conseguenza noi purtroppo abbiamo dei dati terribili, cioè quasi il 25% dei quindicenni è sotto la soglia minima di competenza in matematica, quasi uno su cinque su lettura, vuol dire che sono ragazzi che a 15 anni non sono in grado di fare una semplice operazione matematica o comprendere un testo d'italiano. Ma accanto a questi dati, quando parliamo di povertà educativa non parliamo solo di scuola, ma anche proprio di connessione con il mondo che ci circonda. Quindi la metà dei ragazzi non ha letto un libro nel corso dell'ultimo anno, se non quelli scolastici, non visitano musei, mostre, non frequentano luoghi della cultura, non praticano lo sport. Quindi davvero ci sono delle condizioni di povertà educativa assoluta che non condiziona solo l'oggi di questi ragazzi, ma naturalmente condizionerà il loro futuro, ma sempre collegato comunque con la povertà economica, col fatto che l'estrazione socioeconomica, la povertà economica, e poi diciamolo anche con la presenza, con la situazione geografica, cioè tutto questo si verifica soprattutto nelle regioni del sud. Ma il nostro rapporto dice anche che basta un anno di una scuola di infanzia per cambiare questi dati, cioè il problema è che manca un'offerta educativa in grado di riequilibrare queste distanze di partenza, come invece dovrebbe essere con una scuola ricca di opportunità a tempo pieno, con la scuola dell'infanzia, quindi diciamo una scuola che riesca veramente a riequilibrare queste distanze di partenza che rendono tutto più difficile per un bambino che vive in un contesto svantaggiato. Sentiamo se la senatrice Francesca Puglisi ci dice che con la riforma della buona scuola qualcosa può essere cambiato. Senatrice? Il senso del grande investimento che ha fatto il governo di 4 miliardi all'anno è proprio tutto lì. La scuola deve essere utile per abbattere le profonde disuguaglianze che attraversano il nostro paese. Sono diseguaglianze territoriali, sono diseguaglianze economiche e sociali, e la scuola serve proprio per rimuovere quegli ostacoli che devono rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale del paese, come chiede la Costituzione. Quindi perché più risorse per la scuola date da questo governo? Esattamente con questo intento. E ha ragione la Presidente di Save the Children a dire che l'investimento deve partire da lontano, nell'età più tenera, dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia. Ascoltavo poco fa che c'è preoccupazione forse per Salvini, per i 26 bambini stranieri inseriti in una classe di Bologna. Probabilmente quei 26 bambini hanno già frequentato, figli di genitori stranieri, hanno già frequentato a Bologna un asilo nido, una scuola dell'infanzia, e parlano meglio dei miei figli il bolognese, oltre che anche se è vero, italiano. Senatrice Puglisi, che forse in certi casi, mi scusi senatrice, è vero che magari gli stessi insegnanti possono trovarsi in difficoltà quando c'è un numero magari maggiore di bambini di altre nazionalità rispetto a quelli italiani, proprio per un problema di lingua, non sempre sono a livelli, diciamo, di preparazione linguistica così solida. Le difficoltà ci sono quando i bambini e le bambine arrivano in corso d'anno, appunto per i ricongiungimenti familiari, per l'arrivo di nuovi flussi migratori, allora servono più risorse in quelle scuole dove c'è un alto tasso di immigrazione. Ma appunto, ancora una volta, la buona scuola serve anche a questo. In ogni istituto scolastico arriveranno circa 7 insegnanti in più rispetto a quelli che hanno lavorato lo scorso anno. Questi insegnanti servono appunto per aiutare gli studenti nel recupero scolastico, nel rafforzare le competenze nella lingua 2, quindi nella lingua che non è la loro madre. È propria, esatto. E, senatrice, una cosa, mi scusi. Appunto a combattere la dispersione. Ho ancora pochissimi secondi, senatrice Puglisi. Mi dice, nonostante la buona scuola, insomma, il 9 ottobre ci dovrebbe essere lo sciopero degli insegnanti. Mi dice in una battuta cosa ne pensa, come mai questo scontento, poi ci dobbiamo lasciare. Guardi, io ovviamente continuo a non comprendere lo scontento di fronte ad una legge che dà più risorse alla scuola. Per la prima volta le scuole quest'anno a settembre, nel momento in cui aprono, hanno il doppio del fondo d'istituto dello scorso anno. Gli insegnanti hanno 40 milioni di euro per la formazione in servizio e 500 euro a testa per i consumi culturali. Ci sono risorse, 200 milioni di euro, che verranno date alle scuole secondo criteri che decideranno le scuole stesse, per premiare l'impegno degli insegnanti. Protestare oggi con un governo che per la prima volta dopo anni e anni di tagli investe nella scuola, francamente, comunque noi non ci scoraggiamo, continueremo a far partecipare sindacati, associazioni di studenti, di insegnanti. A un confronto comune, speriamo, senatrice Puglisi. Ci risentiamo allora, mi scusi senatrice, in occasione del 9 ottobre, vedremo come va. Adesso vede, sente la sigla, devo proprio lasciarci. Grazie alla senatrice Francesca Puglisi del PD e a Raffaella Milano di Save the Children. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E tra le notizie in primo piano c'è l'annuncio di Renzi, stasera 8:30 ha detto che farà una manovra da 27 miliardi di euro, poi l'Unione Europea riunita per trovare un accordo sui migranti, ma l'accordo per ora è a metà, intanto via libera la missione contro gli scafisti, anche con l'uso della forza, il nubifragio nel Piacentino, con un morto e due dispersi, ne parleremo tra pochissimo, e poi oggi primo giorno di scuola, abbiamo appena parlato con la senatrice Puglisi e con Raffaella Milano di Save the Children, la ministra Giannini ha detto che i professori hanno accettato la sfida. Quindi vi dicevo che non siamo ancora in autunno, eppure il maltempo ha già fatto dei pesantissimi danni, flagellando la Liguria, l'Emilia Romagna. La situazione più grave nel Piacentino, qui c'è una vittima accertata, si tratta di Luigi Albertelli, una guardia giurata di 56 anni di Ponte dell'Olio, che è stato travolto con la sua auto dalle acque straripate dal Trebbia, e il corpo poi è stato trovato a poca distanza dalla vettura trovata vicino all'abitato di Bettola, che è stato uno dei borghi più colpiti dalla devastazione. Il sindaco di Bettola, Alessandro Busca, che saluto, deve essere stata una giornata terribile per lei. Buonasera sindaco. Buonasera. Senta, si ha nessuna novità sui due dispersi, padre e figlio? Guardi, novità precise no, nel senso che purtroppo la famiglia non ha più avuto possibilità di mettersi in contatto con i parenti, con le due persone che sono allontanate ieri notte da casa, quindi questo non lascia presagire niente di buono, anche se oggi hanno scandagliato una parte del Nure che poteva essere la parte più profonda dove poteva esserci, ma hanno trovato soltanto un parafango di una macchina che sembra assomigliare molto alla macchina che guidava alla persona che andava all'ospedale di Como a fare l'intervento alla cataratta, però ripeto, a Como non sono mai giunti, quindi timore c'è, però aspettiamo, certo, a bilanciarsi. Senta, comunque ci sono state precipitazioni senza precedenti, un fenomeno che voi non avete mai visto da quelle parti. Mai visto, proprio come dice lei, senza precedenti, che è proprio un record storico per il nostro territorio, 330 millimetri di acqua, di pioggia, mai registrata, con una concentrazione di tante precipitazioni in così poco tempo, 4-5 ore, 330 millimetri significa una quantità di acqua enorme. In territori montani dove la pendenza aiuta a far acquisire velocità ai corsi d'acqua, e con un po' di detriti, un po' di macerie, un po' di materiale boschivo che si accumula, questo produce i disastri che ha prodotto qua da noi. L'Ura è esondato nel nostro capoluogo, su un lato in modo particolare, ha distrutto tutti gli impianti sportivi del territorio di Bettola. Accidenti. Campi di calcio, campi da tennis. Voi state per dichiarare lo stato d'emergenza anche come regione proprio? Sì, sì, sì. Sì, domani mattina c'è un incontro col presidente della regione Bonaccini in provincia alle 7.30, dopodiché il presidente verrà a far visita ai luoghi che sono oggetto di questi eventi. Secondo lei, per quello che il vostro territorio è stato messo in sicurezza da un punto di vista idrogeologico o richiede interventi? No, guardi, il nostro territorio è il mio comune insieme al comune limitrofo di Farini, è il comune con il più alto indice di franosità della nostra provincia e uno fra i più alti della regione. Ci servirebbero interventi corposi in termini di prevenzione, che sarebbe una scelta di valore, che dovrebbe essere una priorità assoluta, perché è un investimento sul futuro, cosa che invece avviene raramente, perché le risorse sono scarse. Si interviene invece quando i problemi sono già nati, con delle somme urgenze per riparare in parte i danni provocati e a ripristinare la percorribilità di strade e a ridurre il dissesto idrogeologico, ma solo con interventi correttivi e non interventi preventivi. E certo, ci ritroviamo sempre a dirci le stesse cose, a contare i morti. Senza, certo. Mi dite un'ultima cosa, domani le scuole chiuse? Abbiamo ancora pochi secondi. Domani la nostra scuola è chiusa con un'ordinanza, perché tra l'altro prima perché i locali sono stati delle volte interessati, come tanti locali pubblici e privati del capoluogo, dall'invasione di melma e di fango, dove in alcuni punti era alta anche un metro e mezzo. E quindi è impossibile, certo. È stata ripulita, però la palestra della scuola ospiterà, è già stata trasformata in dormitorio, perché ospita chi sarà 23 persone. C'erano dei giustrai che erano qui per una fiera. Sindaco Busca, io la devo salutare, però la ringrazio e abbraccio i suoi territori. Grazie sindaco. Grazie a lei. Buon lavoro. Alle 22.